Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Diciamo subito a chi si fosse appena messo all'ascolto che oggi la borsa è negativa, ma non rispetto alla settimana scorsa e alle settimane da cui veniamo, non in maniera né preoccupante né così diversa da quello che sta capitando in Europa, nel senso che Parigi perde lo 0,80, Francoforte lo 0,70, Londra pure lo 0,80%, Milano perde un punto percentuale. C'è un caso però nella borsa italiana oggi che non riguarda solo o soprattutto le banche, anche se Monte dei Paschi perde il 4,30%, Popolare Emilia Romagna il 2,91%, Poste Italiana il 3,20%, viste le voci circolate. Citiamo Poste, diciamo, tra le banche italiane, non è un mistero che le Poste non siano una banca a tutti gli effetti, ma soprattutto che sono circolate ipotesi di un interessamento delle Poste per il Monte dei Paschi di Siena. Ne parleremo, sarà questo uno dei temi della puntata oggi, per capire appunto che cosa si stia muovendo su questo fronte, ma non solo, anche sul fronte più generale del risico, delle nozze tra le banche popolari, che seguiremo con attenzione di quasi quotidiana, visto che sarà il tema delle prossime settimane. Però c'è un altro tema oggi che riguarda il gruppo Luxottica, che sta perdendo adesso il 5,91% a 54 euro per azione. Che cosa è successo? Se vogliamo fare un parallelo improprio, è un po' quello che è successo alle generali, ossia se ne va il manager e il titolo perde. Dico improprio perché le motivazioni sono molto diverse. Mario Greco ha lasciato per un contrasto con Mediobanca, ma andrà dal 1 di marzo a Zurich. Qui c'è un caso diverso, nel senso che venerdì è arrivato l'annuncio in serata dell'uscita del gruppo dell'amministratore delegato Adil Bob Khan, che era arrivato appena un anno fa. Ecco, e questo è già un primo elemento di diversità. Greco era da tre anni, se non ricordo male, alle generali. Khan era arrivato un anno fa e nonostante l'annuncio contestuale del fatturato record nel 2015 di Luxottica a 9 miliardi di euro, la borsa reagisce male perché, poi ne parleremo, non capisce l'allontanamento. Sarà lo stesso Leonardo Del Vecchio, presidente e fondatore di Luxottica, a sostituire Khan, che aveva la delega alla internazionalizzazione del gruppo, mentre l'altro amministratore delegato, Massimo Vian, resterà con la delega al prodotto e alle cosiddette operations. 7 milioni di euro di buona uscita per un anno di lavoro non è male comunque per Khan. Ma questo viene preso molto male dalla borsa, dicevamo, perché ci sono dubbi sulla governance, come si chiama in gergo, cioè sull'organizzazione della parte alta, della parte apicale del gruppo. Non si capisce da dopo l'uscita di Andrea Guerra che cosa ancora non stia funzionando. Per quello che riguarda invece gli altri temi, partiremo anche con la vicenda che riguarda il ministro Poletti, che ha illustrato i dettagli sul reddito minimo, e un piccolo approfondimento, se ce la facciamo, anche sulla missione africana, diciamo così, Nigeria e Ghana, da parte del Presidente del Consiglio, missione che coinvolge soprattutto in primo luogo il gruppo Eni. Per quello che riguarda il resto della borsa, oggi, al di là dei titoli che ho già citato, segnalo che va particolarmente bene il Banco Popolare, più 6,16%, e anche se meno forte in rialzo anche la Popolare di Milano, più 1,50%. Le uniche nozze per ora annunciate sono quelle del Banco Popolare con la Pop Milano. CNH Industrial bene, più 2,20%, Atlantia più 1,90%, Ferragamo più 1,5% come Tod's, Mediaset più 1%, euro a quota 1,0887. Ultima cifra, quella per i vostri SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo come spesso facciamo in queste settimane dal petrolio, perché secondo fonti OPEC l'Arabia Saudita non ridurrà la produzione di greggio, c'è un vertice importante in arrivo. Siamo pronti a collaborare per sostenere il mercato, dice Riyadh, ma non a, secondo fonti interne. Lo riporta il quotidiano che è un po' considerato il Le Monde del mondo arabo, panarabo, saudita, Al-Ayat, di proprietà della famiglia saudita. Quindi particolarmente, dovrebbe essere particolarmente affidabile come fonte. Per quello che riguarda invece la Russia, oggi il presidente russo Putin avrebbe detto che le quote delle aziende di Stato che prenderanno parte all'ondata di privatizzazioni non dovranno essere svendute a prezzi stracciati e i nuovi proprietari dovranno ricadere all'interno della giurisdizione russa. E intanto, sempre sul fronte di paesi produttori di petrolio, oggi il governo iraniano ha comunicato di avere a disposizione oltre 100 miliardi di dollari in asset, in proprietà sbloccate all'estero dopo lo storico accordo sul nucleare. Lo ha annunciato ufficialmente lo stesso portavoce del governo, precisando che i soldi erano congelati presso banche in Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Turchia. E poi ha aggiunto questi asset, queste proprietà, dal valore appunto di 100 miliardi di dollari, che è una cifra imponente, saranno sbloccati e adesso potranno essere usate dal governo iraniano. Il dato invece oggi che preoccupa è quello che arriva dalla Cina. La produzione industriale cinese è scesa a gennaio al livello più basso dal 2012 a questa parte. L'indice dei responsabili degli acquisti delle aziende è sceso a 49,4 punti. La cosa importante in questi casi è sempre la soglia dei 50 punti, che statisticamente indica la differenza tra espansione economica e recessione economica. Non è un livello molto sotto i 50 punti, però è l'ennesimo segnale di debolezza per quella che resta la seconda economia mondiale e che già ha fatto segnare, lo ricordo, la crescita annuale più lenta degli ultimi 25 anni. Le vicende di casa nostra che riguardano l'Europa. Allora, oggi il Presidente del Consiglio Renzi ha scritto sulle news: le cose sono cambiate, le riforme sono leggi. Dopo tre anni di recessione è tornato il segno più nei fondamentali economici. Il nostro mestiere è guidare l'Europa, non andare in qualche palazzo di Bruxelles a prendere ordini. L'Italia, ha poi aggiunto Renzi, per anni aveva un debito morale con le istituzioni europee, perché, e con i cittadini europei, perché parlava di riforme che non riusciva a realizzare, ora le cose sono cambiate. E poi ha continuato invece il ministro all'economia Padoan in un'intervista di oggi al Messaggero, in cui dice che la cultura dell'austerity in Europa è ancora forte, dell'austerità senza crescita economica. Manca un meccanismo di aggiustamento simmetrico. Dobbiamo introdurre meccanismi che distribuiscono l'impatto degli shock. A questo proposito, visto che uno dei temi in queste settimane è stato anche il veto posto dall'Italia ai 3 miliardi di aiuti alla Turchia per l'accoglienza dei migranti, la Commissione europea oggi ha chiarito che già a dicembre aveva specificato che i contributi nazionali, cioè dei singoli paesi, al fondo da 3 miliardi di euro per la Turchia non rientreranno nel calcolo del deficit. Decisione già presa a dicembre, come ha sottolineato oggi il portavoce dell'esecutivo europeo Margaritis Schinas. Per ciò che riguarda il trattamento dei contributi nazionali alla Turchia per la gestione dell'emergenza migratoria, in base al patto di stabilità e crescita, la Commissione ha già chiarito a dicembre. Una nota specifica della Commissione inserita negli accordi recita testualmente: la Commissione dichiara che i contributi nazionali non verranno contabilizzati ai fini del deficit di bilancio in base al patto di stabilità e di crescita. Questa risposta è nota fin dallo scorso dicembre. Le spese per migranti verranno valutate caso per caso ex post sulla base delle spese fatte. La valutazione verrà fatta con grande attenzione, come sempre. Allora, vedo molti commenti sulla buona uscita, diciamo così, al ex amministratore delegato di Luxottica, Khan, 7 milioni di euro. Sì, bisogna capire, allora, è chiaro che è tantissimo per un anno di lavoro, il titolo ha guadagnato il 3%, però bisogna capire se dentro questo, dentro questi 7 milioni non vi sia anche, tra virgolette, fatemi usare il termine, una penale per averlo licenziato dopo un anno, nel senso che sembrerebbe strano solo la buona uscita. Probabilmente c'è stato anche uno scivolo d'oro, di platino, quello che volete, ma adesso vi arriveremo. Resta una cifra imponente, per carità, ma le agenzie battono buona uscita, temo o immagino che non vi sia solo quello dentro. Invece veniamo, certo che fa impressione dai 7 milioni di Khan parlare dei 320 euro per un milione di poveri. Comunque questo è quello che ha chiarito oggi il ministro al lavoro Giuliano Poletti, che sul sostegno al reddito per i meno abbienti, un sostegno al reddito pari a 320 euro al mese per un milione di poveri, accompagnato da un piano per la loro inclusione sociale. La riforma dovrebbe partire nel 2017, ma già quest'anno potranno essere utilizzati i 600 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità, con l'obiettivo, come ha chiarito Poletti, di far crescere nel tempo sia l'indennità sia la platea di beneficiari. Inizieranno le famiglie con minori a carico, fino a coinvolgere tutti i 4 milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta. Noi prevediamo un intervento che però ha la caratteristica di essere un intervento universalistico, cioè che si rivolge a tutti i cittadini che sono in quella condizione. Il nostro obiettivo è produrre le condizioni che ogni cittadino possa vivere dignitosamente nel nostro paese, e lo faremo attraverso due tipologie di intervento che sono però collegate. Da una parte un sostegno al reddito, perché sappiamo che bisogna aiutare quelli che non ce la fanno a vivere nella condizione attuale, ma questo sostegno al reddito sarà vincolato e condizionato alla sottoscrizione di un accordo tra questo cittadino, il suo nucleo familiare e la collettività, la comunità locale, che ha l'obbligo, l'onere di prenderlo in carico e di costruire un progetto individualizzato di sostegno perché si maturino le condizioni, perché questo cittadino esca da quella condizione. Devi stare dentro un patto, noi ti aiutiamo, ma tu firmi con noi un patto, perché l'aiuto che ti diamo non te lo dà il ministro o il sindaco, te lo danno gli altri cittadini con le loro tasse. Quindi tu hai diritto, ed è giusto che la collettività ti sostenga, ma tu ti devi prendere un impegno. Devi impegnarti che i tuoi figli vadano a scuola, devi impegnarti che se ti viene offerto un lavoro lo accetti, devi impegnarti che se devi formare ti devi formare, cioè stai dentro un percorso che sarà costruito a livello territoriale a partire dalle specifiche condizioni. E su questo, mentre interveniva anche sui dettagli del provvedimento per i meno abbienti, Poletti ha anche detto che dopo la legge Fornero del 2012 c'è stato un boom vero e proprio, ma anche sospetto, dei voucher per le prestazioni lavorative estemporanee. È un boom un po' sospetto che stiamo monitorando, cominciamo già ad avere un po' di idee, anche perché è scoppiato in corrispondenza della legge Fornero, che ha ampliato a tutti i settori l'utilizzabilità del voucher. Scusatemi, stiamo lavorando con l'INPS per fare un monitoraggio puntuale di queste situazioni e interverremo se necessario, perché non vogliamo che, questo è sospetto, devo dire in alcuni casi una certezza, che il voucher diventi uno strumento di distorsione del mercato del lavoro, cioè vai a precarizzare in maniera stabile un rapporto di lavoro invece che stabilizzarlo utilizzando il voucher in maniera impropria, perché era stato pensato solo per le prestazioni di lavoro estemporanee, momentanee, episodiche, per un periodo di tempo molto, molto breve. Comunque, al piano contro la povertà sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. Un sostegno al reddito pari a circa 320 euro al mese per un milione di poveri, accompagnato da un piano per la loro inclusione sociale che riguarderà almeno 500.000 minori, con l'obiettivo finale di arrivare a una forma di reddito minimo dopo il 2017. È la tabella di marcia del disegno di legge delega che il governo ha approvato la scorsa settimana. Sei mesi e più o meno, e con l'ok finale del Parlamento arriveranno i decreti attuativi. Già da quest'anno potranno essere utilizzati 600 milioni stanziati nella legge di stabilità, che diventano un miliardo dal 2017. Il pregio rispetto al passato di questa legge è che l'intervento è diventato strutturale, quindi questi fondi ci saranno anche negli anni a venire. Infatti negli anni è previsto di coinvolgere almeno 4 milioni di italiani considerati oggi in povertà assoluta, partendo appunto dalle famiglie con minori. Chi riceve l'assegno però avrà l'obbligo di mandare i figli a scuola e di accettare un'occupazione qualora i centri per l'impiego riuscissero a trovarne una disponibile. Obiettivo della nuova legge è anche estendere e rafforzare la cosiddetta social card introdotta dal governo Berlusconi e potenziarne la seconda edizione, che coinvolge 12 comuni con più di 250.000 abitanti. Stiamo parlando di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia e Verona. Qui è in atto la sperimentazione del cosiddetto reddito di inclusione attivo e ad oggi interessa 28.000 persone. Altri 100 milioni saranno destinati alla lotta alla povertà educativa. Si tratta di programmi di recupero scolastico finanziati anche con il contributo delle fondazioni bancarie, perché come è noto spesso povertà fa rima con mancanza di istruzione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie, una negativa, nel senso che rallenta l'attività manifatturiera in Italia a gennaio, l'indice PMI manifatturiero rilevato, o PMI, ditelo come volete, insomma rilevato sarebbe PMI perché è l'indice degli acquisti, dei direttori d'acquisti, quindi Purchasing Index, ha segnato un calo a 53 punti dai massimi, sostanzialmente toccò il massimo a 55,6 a dicembre, erano i massimi dal 2011. Invece la buona notizia riguarda due gruppi italiani, uno in primo luogo, poi parleremo anche del secondo. Il gruppo è Intermarine, che è di proprietà del gruppo IMSI. Ha reso noto che da febbraio diventeranno efficaci i contratti relativi agli ordini di acquisto negli esercizi precedenti, che erano ancora sospesi. Sostanzialmente sono contratti per 150 milioni di euro e inizieranno a Sarzana a preparare due navi per la Marina Militare Italiana, due unità navali polivalenti ad altissima velocità, 40 milioni di euro. In tutto il portafoglio ordini ammonta a 300 milioni di euro. Devo dire che la borsa festeggia, il titolo IMSI oggi è il secondo migliore in assoluto, guadagna il 12,28%. E l'altra notizia che riguarda un gruppo italiano, l'oggetto è Meridiana. Perché? Perché oggi il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi ha fatto sapere che domani vi sarà un incontro al Ministero di Via Veneto tra il ministro e Qatar Airways per vagliare le ipotesi al tappeto per il possibile ingresso di partner stranieri nella compagnia sarda. Erano circolate ipotesi di un ingresso di Qatar Airways in Meridiana fino al 49%. Vedremo. Faccio notare che in questo caso avremmo da un lato Etihad, che ha la maggioranza relativa di Alitalia, dall'altro una forte presenza di Emirates in tutta la penisola, Milano ma non solo, e a questo punto anche Qatar. Sono le compagnie aeree, diciamo, della penisola arabica che in questo momento hanno i maggiori soldi e gli investimenti, proprio sul fronte anche di nuovi accordi e rotte commerciali. Dal Qatar e dall'IMSI, quindi Intermarine, alle banche italiane. Non potevamo non parlare di banche anche oggi, e lo facciamo subito in una giornata in cui, voglio essere chiaro, che qualcuno me lo sta scrivendo, anzi due risposte devo dare. La prima è a chi dice: allora la Commissione Europea fa notare a Renzi che non aveva capito sui 3 miliardi la Turchia, era chiaro a dicembre che non sarebbero stati conteggiati nel deficit. La risposta è sì, la nota del Commissario Europeo sembra andare in questa direzione, ricordare all'Italia che già a dicembre si decise che quei 3 miliardi pagati dai vari stati non sarebbero stati conteggiati nel deficit. che poi il veto l'Italia l'abbia messo perché non aveva capito o perché politicamente voleva iniziare a mettersi di traverso per far pesare di più alcune trattative, a mio avviso è più la seconda che la prima, nel senso che la politica si fa anche così, ma diciamo che oggi l'Europa abbia chiarito che fin da dicembre si sapeva che quei soldi non venivano conteggiati nel deficit è palese, stando alle parole del portavoce della Commissione. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il mondo delle popolari e alla luce anche di quanto dichiarato nel corso del Forex dal governatore Visco, da un lato, quindi tutto il tema del bail-in, vi anticipo già che è stato rimandato al mittente l'ipotesi di riragionare sul bail-in, però c'è anche tutto il tema della riforma delle banche di credito cooperativo e venerdì prossimo, sempre in quel Consiglio dei Ministri, il via libera per le non solo per l'accordo sulla cosiddetta bad bank, ma sulle misure per accelerare il recupero dei crediti. Non è un mistero infatti che le banche italiane in molti casi hanno dei buoni collaterali a garanzia dei prestiti effettuati. Spesso si tratta di immobili. Il problema è che con il diritto civile che c'è in Italia e con la lentezza del diritto civile questi immobili li recuperi in anni. Allora il problema non è la qualità del collaterale, perché un immobile, per quanto il mercato sia un po' calato, è sempre un ottimo collaterale a garanzia, è quando lo riaverai in cassa, quando lo metterai in cassa, cioè quando riuscirai a riprenderlo e a venderlo con i tempi che ha la giustizia civile italiana. Comunque, andiamo col primo tema in attesa del Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo. Allora, ancora attriti, inutile girarci attorno, tra Italia ed Europa sulla questione banche, perché sabato, nell'intervento al Forex, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha detto: attenzione, noi auspichiamo una revisione delle regole per il bail-in, per cui sarebbe stato utile un periodo di transizione più lungo. Ora, io dico tutto, perché ti ha massimo rispetto per la Banca d'Italia, ma come te ne fai ad accorgere il primo? Cioè, io mi chiedo, ma che credibilità puoi avere a livello europeo se quando il bail-in entra in vigore, che vuol dire che qua in caso di fallimento di una banca pagheranno prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti di tutte le categorie e poi se fosse necessario anche i correntisti sopra i 100.000 euro, come fai a svegliarti il primo di febbraio o il 31 di gennaio se è legge dal primo gennaio ed è un anno che lo raccontiamo, no? Comunque, ascoltiamo Visco, eh. Nell'ordinamento europeo il cambiamento è stato drastico e repentino. Nel corso dei lavori tecnici per la definizione della direttiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia sostennero, senza trovare il necessario consenso, che un'applicazione immediata e soprattutto retroattiva dei meccanismi di burden sharing fino al 2015 e successivamente del bail-in avrebbe potuto comportare, oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia, rischi per la stabilità finanziaria, connessi anche col trattamento dei creditori in possesso di passività bancarie sottoscritte anni addietro, in tempi in cui le possibilità di perdita del capitale investito erano molto remote. Le nostre valutazioni furono anche espresse nelle pubblicazioni ufficiali della Banca d'Italia. Sarebbe stato preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario. La BRRD contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. È auspicabile che questa occasione sia ora sfruttata, facendo tesoro dell'esperienza per meglio allineare la disciplina europea con gli standard internazionali. Oh, allora io ho voluto fare il titolo. Visco è più articolato, dice troppo repentino. Abbiamo già scritto, già detto, non abbiamo avuto nessuna reazione. Lì secondo me c'è un riferimento anche ai governi italiani, perché insomma da dire che dovevano porre il tema a livello politico a Bruxelles. E poi dice è previsto dai trattati che si possa guardare e andare a una revisione entro il 2018, se non ricordo male. Però oggi è stato rispedito al mittente non tanto sull'oggetto quanto sulla forma, perché il portavoce della Commissione Europea, appunto Schinas, ha detto la Commissione Europea non è la sede per rispondere a Visco, Bruxelles non è l'interlocutore della Banca d'Italia. I don't think that the Commission is an interlocutor for the governor of the central bank. Non penso che la Commissione europea sia l'interlocutore del governatore della Banca d'Italia. Ci sono altre sedi istituzionali per discutere di politica monetaria. Qui certo si discute di politica, ma non è questa la sede giusta per rispondere a commenti. Non ho alcun commento da fare su questo tema. So I don't have anything to comment on this. Allora. Ma Moria Longo del Sole 24 ha scritto l'altro ieri proprio sul tema delle vigilanze della tutela del risparmio. Perché lo dico? Perché è chiaro che nella polemica sul modo in cui sono state salvate le quattro banche, su quanto in ritardo siamo arrivati, su come le autorità abbiano vigilato sulle quattro banche, Popolare Etruria in primis, su quello che adesso capiterà probabilmente anche alla Popolare di Vicenza, cioè a marzo l'assemblea, insomma pure lì è un caso diverso, ma insomma da più parti si è detto ma insomma si parlano il governo con le autorità di vigilanza, hanno fatto ben presente al governo e all'autorità di vigilanza quello che sarebbe successo, che cosa voleva dire con un bail-in alle porte applicare, arrivare a quella formulazione del salvataggio tra virgolette delle quattro banche. E il tema è stato anche si è spostato anche sulla vigilanza. Visco è sembrato rispondere, a mio avviso, Moria, attenzione, noi l'abbiamo segnalato, scritto, non abbiamo trovato nessun interlocutore, è comunque ancora possibile applicare questo bail-in in maniera più graduale. Tu hai scritto invece in prima pagina, il 31 gennaio, nuova vigilanza e tutela del risparmio. Cosa vuol dire nuova vigilanza? Ma allora... In quell'articolo parlavo del fatto che attualmente la vigilanza sulle banche, o meglio sui prodotti che le banche vendono ai risparmiatori allo sportello, c'è una doppia vigilanza, la vigilanza diciamo è bicefala. Da un lato c'è la Banca d'Italia o la BCE per le banche più grosse, che vigila sulla solidità degli istituti, fa le ispezioni e nel caso fa i suoi interventi. Dall'altra parte c'è invece la Consob, che è quella che invece autorizza i prospetti informativi per aumenti di capitale o per emissioni obbligazionarie da vendere ai risparmiatori. Il problema è che è capitato, per esempio nel caso anche di Banca Marche, che le informazioni che aveva Banca Italia non arrivassero in maniera tempestiva e completa alla Consob, per cui la Consob, mentre la Banca Italia faceva ispezioni su Banca Marche, approvava un prospetto informativo e quindi per la vendita di prodotti al risparmiatore, senza sapere che l'ispezione stava in realtà evidenziando una serie di criticità già evidenti. Quindi il problema è poi questa cosa, ovviamente questa vigilanza bicefala crea poi anche ex post, quando accadono eventi traumatici, il classico scaricabarile, ma io non dovevo controllare. Abbiamo visto l'intervista di Vegas, se non ricordo male, sul Corriere, se vado a memoria, sul Corriere, dire insomma noi non ci hanno ascoltato, non abbiamo poteri. Sì, il problema è che abbiamo una Banca Italia che vigila sulle banche, la Consob che vigila non sulle più grosse ormai, sì, perché lo fa la BCE. Banca Italia e BCE a seconda, sì, certo, delle dimensioni. La Consob che vigila sui prospetti, ma la Consob quando approva i prospetti non sa esattamente cosa c'è dentro la banca e vigila. Sì, cioè, è una questione quantomeno curiosa, quindi in qualche modo andrebbe sanata. No, anche perché ricordo che le autorità di vigilanza sono state chiamate in causa su questi prospetti per aver modificato il prospetto informativo, cioè non avere, adesso la dico male, non avere intanto modificato in senso favorevole queste banche, poi non avere insistito di più perché nel prospetto fosse chiaro il rischio che ti assumevi con le obbligazioni di carattere subordinato, per cui che non erano obbligazioni normali, e invece questo non è stato fatto. Torniamo sul tema dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Focus Economia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha raggiunto un accordo con la Commissione europea su uno schema di garanzia pubblica per il debito senior derivante dalla cartolarizzazione di sofferenze. L'accordo non richiede alle banche ulteriori accantonamenti, segna un progresso nella creazione di un mercato secondario dei prestiti deteriorati, ponendo fine all'incertezza dei mesi scorsi. Il più agevole reperimento di risorse per finanziare l'acquisto di tali prestiti ne consente una più rapida dismissione e può contribuire a un aumento non trascurabile dei prezzi di vendita. Insieme con le possibili ulteriori misure per accorciare i tempi di recupero dei crediti, lo schema di garanzia potrà agevolare il riequilibrio dei bilanci delle banche e la loro capacità di finanziare l'economia reale. Allora, voglio essere chiaro, la Banca d'Italia è un patrimonio di questo paese, lo è stata nel corso dei decenni, nei momenti peggiori della storia di questa Repubblica, prima, seconda, terza. La Banca d'Italia ha rappresentato non solo la fucina dei grandi commis dello Stato, ma anche di persone serie. Non sempre la classe politica ha fatto e ha svolto invece questo ruolo. Lo dico come premessa, perché poi quando uno critica il governatore deve metterla questa premessa. Nel passato comunque abbiamo visto anche tensioni molto forti, pensate a tutta la vicenda del governatore Antonio Fazio, lo scontro con l'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, il legame con la Popolare di Lodi di Fiorani da parte di Fazio, e insomma e quant'altro, le dimissioni prima del tempo. Però a me è sembrato, Moria Longo, e ripresenti anche tu, che al Forex ci fosse, non voglio usare il termine scusatio non petita, cioè una delle scuse non richieste, perché i latini aggiungevano accusatio manifesta, cioè, che ci fosse una Banca d'Italia, diciamo, sulla difensiva. Noi abbiamo segnalato che Belin era troppo, entrava in vigore troppo presto, senza un periodo di transizione, non ci hanno ascoltato, lo abbiamo scritto, siamo ancora in tempo per cambiare, modificare, correggere il tempismo di questo Belin. E poi sulla bad bank, insomma, perché si sente sotto attacco, diciamo così, la Banca d'Italia? È evidente dalla vicenda delle quattro banche salvate e dall'arrivo di un bail-in in Europa che ha creato una bufera finanziaria bancaria, non solo in Italia ma in tutta Europa, le banche sono crollate molto più che negli altri paesi. È evidente che c'è stato un problema proprio normativo e di un'entrata in vigore della normativa e anche di un decreto salvabanche, questo solo per l'Italia, che ha creato una serie di problematiche proprio interpretative e di paura sul mercato. Le banche italiane hanno dei problemi, che sono i crediti deteriorati, l'eccessiva frammentazione, una bassa redditività, ma ce li hanno oggi come ce l'avevano l'anno scorso. Sì, quando saliva, è una cosa che abbiamo fatto notare, cioè non è possibile che i 200 miliardi più o meno di sofferenze lorde c'erano anche a dicembre, a novembre, quando i titoli bancari crollavano, quindi non si può dire improvvisamente. Assolutamente. Cos'è che è cambiato? È cambiato che a novembre il governo ha fatto il decreto salvabanche, ha costretto le quattro banche salvate a svalutare crediti deteriorati al 17%. Questo significa che ha costretto queste banche a prendere delle perdite enormi che nessun'altra banca in Italia ha mai preso sui propri crediti deteriorati. Quindi questo ha creato un punto di riferimento, il mercato, certo, ha iniziato a dire: non è che adesso anche le altre banche dovranno svalutare a prezzo di mercato. Esattamente. Io dico una cosa, lo dico con massimo rispetto, abbiamo già avuto modo di dirlo, con quel decreto di fine novembre è stata una prova, un esempio di non pressapochismo ma di dilettantismo, che è una cosa un po' diversa. Pressapochismo quando fa le cose fatte male, nel decreto insomma c'erano scritti tutti i dettagli. Dilettantismo perché a vari livelli il governo non ha capito cosa sarebbe successo nell'opinione pubblica del paese e ha continuato a dire: ma come, abbiamo salvato 1 milione di correntisti, vi lamentate per qualche decina di migliaia di obbligazionisti, non capendo il messaggio che arrivava a tutti gli italiani, visto che più o meno tutti abbiamo un conto corrente: attenzione, non sei più sicuro neanche sull'obbligazione della banca. E poi arriva il bail-in neanche più sul conto corrente sopra i 100.000 euro. La Banca d'Italia, evidentemente qualcosa non ha funzionato nella comunicazione con il governo, e anche la Consob, che appare sempre più eterea, non voglio beccare l'ennesima querela, eterea nel senso che sì, Vegas si lamenta, però poi ogni volta non interviene. Abbiamo visto adesso le ispezioni, io aspetto ancora un rapporto Consob su quello che capitò a Monte dei Paschi in quei giorni in cui un giorno perse il 14 o il 20, il giorno dopo riguadagnò il 20, tutto, addirittura una giornata in cui perdeva l'8, guadagnava il 4 e nell'ultima mezz'ora ha riperso il 5. C'è una roba che non si può vedere se non vuole dire che la borsa è in mano a chi cavolo entra, come se fossero nomadi provenienti dalle steppe caucasiche. Allora, questo è il problema, che c'è stato un dilettantismo nel capire le conseguenze. Sì, e soprattutto il fatto anche che appunto la normativa del bail-in è stata discussa in Europa, è una direttiva che è del 2013, entra in vigore quello parlo di dilettanti, allora, cioè avevi tutto fatto, l'anno... Ma non un anno, ne abbiamo avuto più di uno di anni. E il fatto che in Italia le banche abbiano scaricato e venduto ai risparmiatori, allo sportello, obbligazioni anche subordinate, era noto. Il fatto che queste obbligazioni avessero rendimenti molto più bassi rispetto a quelli medi del mercato e quindi traevano in inganno perché non facevano percepire al risparmiatore che il pericolo era noto, non è che ce li siamo inventati oggi. Allora il fatto che si è arrivati al 2016 improvvisamente senza riuscire a gestire una situazione così, secondo me qualche problematica c'è stata. Sì, c'è stata anche una forte problematica, anche una problematica comunicativa da parte dell'Europa, perché tutta questa vicenda l'ha creata comunque questa normativa del bail-in, che nella logica è corretta, cioè non sono più gli stati a dover salvare le banche, ma chi nelle banche investe, azionisti e creditori, il che è anche logico. Tra l'altro elimina una serie di asimmetrie, perché l'Italia non era in grado di salvare le banche, la Germania sì, quindi la Germania oggi ha banche più solide perché le ha salvate delle nostre, quindi si elimina questa asimmetria, quindi una logica c'era, ma andava sicuramente innanzitutto fatto un periodo transitorio più lungo, con questo concordo con Visco, ma andava deciso prima, e poi andava gestito meglio il fatto proprio che questo obbligazioni sono in mano a risparmiatori che non sapevano assolutamente di questa cosa. C'è un aspetto ulteriore, attenzione, che l'Europa è stata molto veloce su richiesta tedesca nell'applicare bail-in per quello che riguarda i correntisti e i risparmiatori, meno veloce perché bail-in prevede anche un'altra cosa, la responsabilità degli amministratori. Su questo siamo un po' più lenti, cioè l'implementazione più lenta. Dopodiché è ovvio che il resto d'Europa, che si è già sistemato le banche, Moria non avesse, sì, tanto loro l'hanno già sistemate, il paese che doveva preoccuparsi, dire aspetta, abbiamo bisogno di un po' di transizione, dobbiamo chiudere con queste quattro banche che hanno venduto roba tossica, hanno venduto roba che assomiglia alla cioccolata a mani basse, e abbiamo bisogno anche di spiegarlo, quello era un compito obiettivamente dell'Italia, siamo noi quelli che non hanno mai fatto nulla sulle banche in questi anni e abbiamo raccontato sempre che le nostre banche erano tutte diverse, tutte più solide. Dopo il traffico, l'ultimo aspetto, cioè come vanno avanti i matrimoni, le nozze, le unioni civili tra le popolari. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento Focus Economia. Io ho definito eterea la Consob, qualcuno sta giocando con le parole, Etruria, etera, lasciamo stare. Allora, andiamo avanti con le unioni civili delle banche. Di certo c'è Banco Popolare e Popolare Milano. Ho visto oggi, anche in questi giorni, intanto il possibile ruolo delle Poste Italiane col Monte dei Paschi, mi tremano un po' le mani però, e anche i polsi, e poi la Popolare Emilia Romagna che sembrerebbe guardare alle banche della Valtellina, che poi sono due, Popolare Sondrio e Credito Valtellinese, con un occhio all'evoluzione in Veneto Banca. Moria. Da tempo che si sta provando la qualunque. L'unico matrimonio che mi sembra veramente pronto quasi alle nozze, all'altare, è quello appunto tra Popolare Milano e Banco Popolare. È vero, siamo le nozze si possono fare anche in comune. Comunque vai. Davanti al sindaco. Quello tra Banco Popolare e la Popolare di Milano. Tra l'altro io ero a Torino l'altro giorno al Forex e entrambi gli amministratori delegati hanno parlato abbastanza con una certa convinzione di questa cosa. Il vero punto di domanda vero vero grosso è quello del Monte dei Paschi, che deve assolutamente trovare un partner per imposizione stessa della Banca Centrale Europea. Da tempo che fa fatica a trovarlo, adesso è uscita questa ipotesi del Banco Posta che è stata però smentita. Questo è il vero punto di domanda, ma il motivo per cui è difficile fare le aggregazioni, o è stato difficile fino ad ora, è che se le banche hanno in bilancio un sacco di crediti deteriorati e non si sa quanto debbano svalutarli, allora non sai quanto può valere una banca. Quindi il problema sta nel prezzo. Per questo che sia Draghi sia Visco continuano a dire che i crediti sono stati svalutati giustamente, quindi non servono altre svalutazioni, proprio per cercare di mettere una barra su questa cosa. Mm-mm. Ma finché non si capisce come funzioneranno queste bad bank o veicoli, infatti è fondamentale, ti interrompo, scusami, il Consiglio dei Ministri di venerdì, perché deve dare il decreto sulla, dopo l'accordo raggiunto con Bruxelles, e aggiungo, deve dare anche, se abbiamo ben letto, far capire come si potrebbe velocizzare il recupero dei collaterali, come si potrebbe velocizzare il recupero dei collaterali a garanzia di questi crediti non più esigibili, non più, perché quello poi è il tema, perché se io so che ci metti 4 anni, una domanda sul tuo patrimonio me lo faccio, perché fra 4 anni potrai ripatrimonializzare vendendo l'immobile, il capannone, lo stabile, ma prima no. Sì, tra l'altro la durata media attualmente sono 8 anni, sì, per no, cui dico, 4 anni sarebbe già una cosa ambiziosa. Era la parte, diciamo, ottimistica della cosa. Per cui sul fronte nozze siamo ancora, diciamo, alla fase di giovedì-venerdì. Sì, assolutamente. Adesso vediamo, visto che comunque dei chiarimenti ci sono stati, soprattutto sulla bad bank, adesso si iniziano un pochino a poter valutare il valore delle banche, quindi questo può essere la premessa per eventuale aggregazione. Quindi diciamo che qualcosa può sbloccarsi adesso, però bisogna innanzitutto capire esattamente come funzioneranno queste bad bank. Allora, adesso andiamo a commentare invece come hanno reagito e come si sono mosse oggi tutte le banche quotate a Piazza Affari, le principali chiaramente, anche se, ripeto, oggi il caso di borsa, fermo restando che la borsa ha perso lo 0,90, Parigi meno 0,60, Francoforte meno 0,40, Londra meno 0,40 e che il Monte dei Paschi ha sofferto anche oggi il 3,85%. Poste Italiane il 2,71, Popolare Emilia Romagna 2,45% di calo, meglio Intesa San Paolo meno 2,14, Generali meno 1,70, Unicredit meno 0,80, UbiBanca meno 0,14. Sarà un caso, ma le due banche su dove si è fatta maggiore chiarezza sul futuro, cioè Banco Popolare e Popolare di Milano, sono le migliori, sono anche positive. Banco Popolare più 6% e Popolare di Milano più 1,20%. Dicevo, parleremo anche di questo, anche se oggi la notizia la fa un gruppo di cui non ci occupiamo così tanto, lo aggreghiamo come sempre al lusso. Il gruppo si chiama Luxottica, ha perso il 5,70% perché venerdì scorso a borsa chiusa si è saputo che uno dei due amministratori delegati, dopo appena un anno, se ne va, è Khan, è quello che avrà delega all'internazionalizzazione, se ne va contento, tra virgolette, perché prende 7 milioni di euro di buona uscita. Immaginiamo che lì vi sia però anche un accordo, diciamo uno scivolo di platino, l'abbiamo chiamato prima, perché erano del tutto inattese le dimissioni ad appena un anno dall'insediamento. Allora, qui c'è un caso strano, abbiamo fatto un'analogia impropria con le generali, in cui un gruppo sano che ha buoni dati perde in borsa perché Mario Greco annuncia che se ne va, però la cosa era molto diversa, ha annunciato che se ne andava, che andava a Zurich, era nell'aria, anche lì un po' a sorpresa. Qui abbiamo un caso diverso perché Luxottica annuncia un fatturato record nel 2015, 9 miliardi di euro, il titolo nell'ultimo anno si è mosso bene, ha guadagnato il 3%, e però annuncia che Khan, per la precisione lui si chiama Adil Mehbob Khan, se ne andrà da febbraio, se ho ben capito. Siamo già a febbraio, Barisoni, accetto la critica, tra una settimana, controllo il giorno esatto in cui se ne andrà, però con una buona uscita da 7 milioni di euro, ed il vecchio prenderà le sue deleghe, cioè direzione dell'internazionalizzazione. La Luxottica, non devo spiegare ogni volta chi è, il leader mondiale nel settore degli occhiali, 130 paesi, 7.000 negozi tra Nord America, Asia, Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina, 80.000 dipendenti, la sede nel Cadorino, Agordo, e 30 miliardi di euro di capitalizzazione, ai marchi Ray-Ban, Oakley, Vogue, Persol, Armani, Dolce Gabbana, Bulgari, Tiffany, Versace, Ralph Lauren, insomma, il colosso numero uno. E 6 impianti produttivi, sono 3 in Italia, e poi in Cina, uno in Brasile e uno negli Stati Uniti. Monica D'Ascenzo, torneremo dopo quanto ho? Niente? Niente. Intanto saluto Monica D'Ascenzo del Sole 24 Ore, che ne scriverà anche domani. Dopo il GR24 ci racconti che cosa è successo, perché non è un mistero che questo abbandono arrivi dopo un altro abbandono bello rumoroso, quello di Andrea Guerra, che aveva guidato negli ultimi anni proprio Luxottica. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Monica D'Ascenzo, stavamo cercando di capire che cosa è successo tra virgolette Luxottica. Ora, i cambi di vertice ci possono essere, certo che dopo appena un anno e dopo quello che era stato il travagliato abbandono, addio di Andrea Guerra, Luxottica si era citato anche, diciamo, la vita privata di Leonardo Del Vecchio, il ruolo della quella che i giornali in alcuni casi hanno chiamato la Dama Bianca, Nicoletta Zampillo, che voleva 25% delle azioni Delfi. Insomma, perché se n'è andato Cannes, visto che la borsa reagisce malissimo, meno 5,73% nonostante il fatturato record di Luxottica nel 2015? Beh, è stato chiaro, lui stesso ha detto che in tre era impossibile guidare l'azienda, quindi ma il terzo chi è? Perché un altro è, e lo sappiamo, Vian, che è amministratore delegato, che mantiene le deleghe per le operations e la parte, diciamo, interna. Il terzo era il presidente Del Vecchio, che comunque ha sempre dedicato all'azienda molto del suo tempo e ancora adesso passava, e adesso ancora di più, almeno due giorni alla settimana a Milano. Quindi evidentemente, pur non avendo magari deleghe operative, interveniva in modo stringente su quelle che erano le strategie e le decisioni dell'azienda. E in tre diventa davvero difficile guidare un gruppo, anche se le competenze fra i due amministratori delegati erano state suddivise in modo, diciamo, molto netto. L'operation da una parte e i mercati internazionali a Cannes, che aveva una grande esperienza in questo senso, parlava diverse lingue, quindi era in grado anche di andare a trattare sui mercati internazionali direttamente. E quindi, cioè, tu ci confermi che è stato uno scontro netto quello tra Cannes e Del Vecchio, nel senso che lui pensava di avere la delega sulla l'altra parte, invece si è ritrovato ad avere una delega dimezzata, ho capito bene? Chiaramente hanno smentito che ci fossero attriti personali, questo non lo possiamo sapere. Sicuramente professionalmente non si è trovata la quadra di questo trittico. E adesso il problema è che il mercato non ha più fiducia in quello che è il piano di successione del gruppo, perché abbiamo visto già quando, come tu dicevi, è uscito Guerra, non c'era una successione, un piano di successione che potesse garantire una continuità all'azienda e alle strategie del gruppo. Era arrivato Cavatorta, che dopo pochi mesi è andato via ed è stato sostituito appunto dalla doppia guida di Can e Vian. Adesso, a distanza di 18 mesi, ci si ritrova ancora in un impasse. Ha ripreso le deleghe di Can Del Vecchio, che però è presidente ottantenne, e a quanto pare non c'è una ricerca di un nuovo amministratore delegato a breve. Il presidente dovrebbe avere queste deleghe. Oddio, hanno detto che ci sarà un nuovo piano a marzo, ma tu dici senza necessariamente un nuovo amministratore delegato? Sì, è già stato detto che le deleghe probabilmente rimarranno al presidente per i prossimi 2 o 3 anni. Però, e questo non garantisce chiaramente una continuità aziendale. Inoltre, l'azienda aveva fatto una scelta precisa. Quando tu nominavi la ripartizione delle quote di Delfin, alla moglie attuale andrà il 25%, ai figli il 16,7% ciascuno, sono 6 figli. Questo aveva portato a escludere i componenti della famiglia nella gestione dell'azienda, tant'è vero che anche il figlio maggiore, che era presente nel consiglio di amministrazione, ne è uscito. Quindi da una scelta manageriale si torna indietro e si torna a una presenza concreta dell'imprenditore all'interno del gruppo. Sì, devo dire che sono arrivati anche giudizi che riportavano le agenzie di Barclays e di JP Morgan, incertezza sul breve periodo. Tra l'altro, appunto, come tu anche ricordavi, è il terzo numero uno che cambiano in 18 mesi da quando se n'è andato Andrea Guerra dopo 10 anni. Osservano le banche d'affari con sorpresa il fatto che il presidente, ottantenne, Leonardo Del Vecchio, prenda il controllo dei mercati internazionali. Adesso, col massimo rispetto per Del Vecchio, che è stato un grande, un genio, la Luxottica l'ha creata lui, sappiamo la storia molto particolare anche di Del Vecchio, che era un martinit, cioè era un orfano, però insomma quella delega lì è una delega molto molto operativa. I mercati internazionali, Luxottica è in 130 paesi, ha 6 stabilimenti di cui 3 fuori dall'Italia, cioè deve avere anche l'energia per seguirla bene, mettiamola così. Forse su questo che la borsa resta un po' scettica. E anche una presenza fisica, perché fra gli obiettivi dichiarati c'è la crescita a livello geografico in Cina e America Latina. Non si può crescere in questi paesi senza pensare di essere presenti anche fisicamente sul mercato, trovare dei partner e trovare delle nuove occasioni di sviluppo. L'altro obiettivo è quello di far aumentare ancora di più, hanno già avuto un più 50% lo scorso anno, le vendite online. E anche in questo caso forse energie nuove e con una lungimiranza per il futuro sarebbero più adatte per uno sviluppo su un mercato digitale. Un'ultima nota, visto che ce la chiedono gli ascoltatori, ma i 7 milioni sono frutto non tanto di una buona uscita, perché dopo un anno, io capisco tutto, ma maturare 7 milioni anche di un accordo per uscire, di uno scivolo? Sì, ce l'ha anche Massimo Vian, che è l'amministratore delegato che è attualmente rimasto in azienda. Nel suo caso, se l'azienda chiede a lui di uscire, sono 3 milioni. Nel caso di Cane invece aveva ricevuto 9 milioni per entrare in azienda, come bonus d'ingresso, chiamiamolo così, e aveva nel contratto 7 milioni per uscire. Cioè lui ha preso alla fin fine 16 milioni più lo stipendio annuale. Arriva a 18 milioni circa, i suoi 15 mesi in azienda. A vene di licenziamenti così, no, mi dispiace, sono contento per Can, però insomma. Detto ciò, la linea la conoscete, un gruppo privato risponde ai suoi azionisti e risponde alla borsa e non sono soldi pubblici, quindi così come il merito va a Luxottica di essere arrivata a questo record di fatturato, lo ricordavamo proprio nel giorno in cui si è avuto l'annuncio di Cannes. Luxottica aveva registrato un fatturato a 8 miliardi e 800 milioni, merito di chi ci lavora. Uno può dare un giudizio sull'opportunità, ma è una cosa diversa dai bonus, dagli sprechi di soldi pubblici, lo dico a chi sta scrivendo. Grazie anche Monica. Mi scrive un ascoltatore nel commentare la buona uscita di Can, Orco Can, e va bene, capisco anche l'origine regionale. Grazie Monica da Scienza. Invece adesso andiamo sulla borsa. Sarebbe interessante, ma tanto non parla, sapere che ne pensa Andrea Guerra, perché lui prese 11 milioni di buona uscita dopo 10 anni di lavoro. Questo ne ha presi 9 più 7, 16 per un anno. Non so. Sono problemi che non ci riguardano, per carità, però posso capire che Guerra possa rosicare un po', no? Come io 11 milioni per 10 anni, tu 17 milioni, 18 con lo stipendio, diciamo solo il bonus, tu sostanzialmente 16 milioni per un anno, Orco Can. Veniamo al resto della borsa, al di là di Luxottica con Andrea Fontana, le banche, ne abbiamo a lungo parlato nella prima ora del programma. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Di IMSI abbiamo detto, l'accordo di Intermarine per realizzare 2 navi veloci per la Marina Militare. Altri temi di borsa? Beh, un tema di borsa è sicuramente quello del Banco Popolare, più 6%, le dichiarazioni arrivate dal Forex di Torino da parte dell'amministratore delegato Saviotti su un accordo ormai imminente, anche se qualcuno resta cauto nell'esporsi, con la Popolare di Milano, hanno fatto rialzare il titolo del 6% e anche la Popolare di Milano ha guadagnato l'1,2% in uno scenario invece in cui non sono bastate le parole di Ignazio Visco per rassicurare e per tenere lontano altri istituti dalle vendite. E in questo senso è significativo l'andamento del Monte dei Paschi, ha perso quasi 4%, ma anche di Poste Italiane, perché si sono diffuse nel weekend le indiscrezioni su un interessamento di Poste Italiane attraverso Banca Poi smentite, Posta. Devo dire. Smentite da Poste Italiane, però ma la paura fa 90. Cioè, se questa è la reazione quando smentisci, figurati la reazione, posso fare la battuta, se avessi confermato, lo diciamo con molto affetto, però Poste Italiane perde il 2,71 su un'ipotesi smentita di un ingresso nel Monte dei Paschi, insomma non c'è bisogno di altro commento, ma ti ho interrotto, Andrea. No, esattamente, quindi non è bastato, già nei giorni scorsi si era diffusa qualche voce di interessamento di Poste per qualche gruppo, si era parlato anche delle banche ponte, insomma delle banche oggetto di salvataggio a fine anno, e anche in quel caso il titolo aveva ripiegato nonostante le smentite. Altro tema significativo, la perdita consistente di Safilo Group, è stata la peggiore a Piazza Affari, ha perso oltre il 12%, sì. Venerdì sono stati annunciati i ricavi 2015 con una flessione di quasi il 3% a cambi costanti, ma soprattutto una forte flessione in Asia e nel Nord America, che non è piaciuta al mercato perché fa poi prospettare marginalità e redditività in flessione quando saranno comunicati nel corso del mese di marzo. Sì, devo dire non è stata una gran giornata per l'occhiale italiano, motivi diversissimi, ci mancherebbe, quelli di Luxottica e quelli di Safilo, che è il peggior titolo come tu ricordavi, meno 12%, il secondo peggior titolo è Nokia, meno 11%, Alcatel-Lucent meno 8,80% e poi poco altro, mentre tra i migliori e peggiori, oltre a IMSI di cui abbiamo detto, c'è anche Invest più 9,70%, Nertronica più 8,80% e poi il migliore in assoluto è Energica Motor Company, che guadagna alla fine il 15,51%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso dopo il traffico andiamo in Africa, si fa per, la miseria, si fa per dire, perché in Africa c'è il Presidente del Consiglio che oggi ha iniziato un'altra tappa africana dopo il Mozambico, l'Angola, il Kenya e l'Etiopia, oggi farà Nigeria, poi Ghana e Senegal. Di nuovo una delegazione composta da Confindustria, SACE, che assicura le imprese italiane quando vanno sui crediti all'estero, la Cassa Depositi e Prestiti e poi anche altre imprese partecipate, tra cui Eni ed Enel e il gruppo Trevi. L'Africa è energia, perché quando parliamo di Nigeria stiamo parlando del principale produttore di petrolio africano, poi c'è anche l'Angola e il Congo, scusatemi, dove l'Eni è presente in Congo Brazzaville, la Pont Noir, però c'è anche il resto ed è importante che l'Italia si stia svegliando e complessivamente l'Europa si stia svegliando, visto che, come abbiamo raccontato in anni non sospetti, i primi 10 anni del 2000, quindi il primo decennio del 2000, è stato il decennio in cui si è imposta in Africa una potenza che si chiama Cina, mentre tutte le altre, a partire da quelle europee, battevano in retromarcia. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, giustamente un ascoltatore mi fa notare che Luxottica ha la sede nella Gordina, non nel Cadorino. Avete ragione, chiedo venia. E invece dalla Gordino Cadorino ci spostiamo in Nigeria. Ora, la Nigeria, oltre ad avere un PIL superiore a quello del Sudafrica, e vale da sola il 30% di tutta l'economia subsahariana, cioè dell'Africa, diciamo, non nord, per intenderci, una volta si chiamava Africa Nera, ma è un paese che ha compiuto, nonostante i grossissimi problemi di sicurezza e stabilità interna, pensate solo a Boko Haram, non è tema di questo programma, ma è chiaro che i terroristi di Boko Haram sono, ahimè, molto attivi, e al fatto che non riesca a tenersi praticamente il 20% della produzione nazionale di petrolio, nel senso che i furti di petrolio in Nigeria sottraggono al governo dai 100 ai 400 mila barili al giorno, si arriva quasi appunto al 18% della produzione nazionale. Però è un paese immenso, è il primo produttore di greggio del continente, 180 milioni di abitanti, ma volevo dare un dato prima di passare la linea e salutare Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore. E cioè, nel 1990 in Nigeria c'erano 300.000 linee telefoniche fisse, è proprio come si diceva una volta, il paese del terzo mondo, in via di sviluppo. Adesso ci sono 100 milioni di abbonati ai telefonini, che su 180 milioni di persone è una cifra enorme. E la dice lunga su quello che è comunque una crescita silenziosa, non prorompente, ma dell'economia africana, un po' a macchia di leopardo, ci mancherebbe. Ecco, macchia di leopardo, quando parli dell'economia africana, viene da solo. Però questi dati vanno visti con attenzione, anche perché poi Renzi e la delegazione delle imprese italiane si sposterà in Ghana e in Senegal. Ad Accra dovrebbe esserci un accordo in Ghana per la riattivazione della ferrovia occidentale. Vi era già stato Carlo Calenda, che adesso si è trasferito a Bruxelles per volere di Renzi. Il Ghana è uno dei paesi più aperti dell'Africa agli investimenti esteri, e poi il Senegal, che è uno dei paesi più stabili politicamente dell'intera Africa subsahariana. È un incontro dopo la visita che c'era stata nel 2014. Gerardo Pelosi, buonasera innanzitutto. Buonasera. È la terza volta a breve che il governo va in Africa, c'è stato Mozambico e Angola, poi Kenya e Etiopia, e se ho ben visto poi vi sarà a brevissimo un'altra missione, dall'8 al 10 febbraio i ministri Delrio, Guidi e Martina, quindi trasporti, sviluppo economico e agricoltura a Teheran, e poi Martina e mi sembra anche Delrio, ma non sono convinto su Delrio, a Mosca dall'8 al 12 febbraio. Anche Radio 24 seguirà una delle fiere più importanti, anzi la fiera più importante in Russia per il settore agroalimentare, dove purtroppo le nostre aziende stanno soffrendo tantissimo. Da 75 aziende presenti siamo scesi a 14. Comunque, è la politica estera di Renzi verso l'Africa? Lui ha ribadito poco fa, per anni abbiamo abbandonato l'Africa, è una priorità dopo anni di assenza. Ma c'è da dire questo, secondo me, che se da un lato dal schermo radar della politica queste capitali dell'Africa subsahariana erano sempre state assenti, però per le imprese, soprattutto per l'ENI, non è così. Cioè, per esempio l'ENI è dal 62 con l'attività regolata da quella PSA, Production Sharing Agreement, ha una serie di attività di ricerca, di produzione, tra l'altro c'è anche un piccolo problema perché secondo un quotidiano locale ci sarebbe stato un problema di corruzione su una di quei campi di produzione insieme alla Shell, e sembra che forse oggi in privato ne abbiano parlato il presidente Buhari con Renzi. Ma evidentemente questa terza missione in Africa significa che per noi questo continente sta diventando fondamentale. Certo, la Cina, come hai ricordato, ha ormai non soltanto nell'Africa subsahariana, ma anche sotto casa nostra, nell'Africa settentrionale, ormai la fa da padrone. E anche prima dell'attacco in Libia, già con Gheddafi c'erano accordi con i cinesi. Quindi diciamo, noi stiamo cercando, come dire, di trovare il nostro spazio, di recuperare. Le aziende italiane sono ben accolte, e il formato, che è quello appunto di mandare prima il ministero, il viceministro Calenda, a suo tempo Calenda, a fare le attività di scouting, poi la missione governativa e poi i seguiti con delle missioni settoriali, sta funzionando bene, sta funzionando in Iran, sta funzionando in America Latina, potrebbe funzionare anche in Africa. Ecco, questo è il... Sì, devo dire, finalmente facciamo quello, lo dico in senso positivo, ci provò la Confindustria anni fa, facciamo quello che fa un paese come la Francia o anche la Germania ogni volta, cioè manda i viceministri più operativi a sondare il terreno, a vedere, poi organizza la missione più politica, dove va la stessa Angela Merkel, Hollande, con tutti i ministri, le aziende. È chiaro che le partecipate degli stati, quelle più grosse, sono quelle che hanno anche maggiori mezzi, ma anche altre aziende delle costruzioni e quant'altro, e poi c'è il cosiddetto follow up, cioè la ricaduta sugli accordi. Non è nulla di nuovo, ma finalmente lo facciamo anche noi, lo dico con estremo piacere, perché gli altri paesi così si muovono. E questi, esatto, e questi leader locali, Buhari, ma anche il presidente del Ghana e quello del Senegal che incontrerà domani, e si aspettano da Renzi, come dire, un via libera anche dei rapporti con l'Unione Europea. Noi quindi ci presentiamo come paese di ponte con l'Unione Europea, paese che l'anno prossimo presiderà il G7, quindi non soltanto accordi commerciali, ma anche cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è stata riformata, c'è un'agenzia nuova e noi dobbiamo fare di tutto per migliorare quel gap che ormai ci vede come fanalino di coda. Infatti devo dire che Renzi ha parlato di investimenti in energia e petrolio, in particolare con l'ENI, mi riferisco alla Nigeria, ma anche in infrastrutture e logistica. Tra l'altro su questo faccio notare che noi siamo, la Nigeria per noi è il primo partner nell'Africa subsahariana, importiamo 855 milioni di euro, chiaramente si tratta di petrolio e gas soprattutto, ma anche cuoio e prodotti dell'agricoltura, e esportiamo macchinari per mezzo miliardo l'anno, macchinari, metallo, prodotti petroliferi raffinati, apparecchiature elettriche. Attenzione a sottovalutare questi aspetti. Accolgo la battuta, visto che ho detto un'economia macchia di leopardo in Africa, ed era uno mi scrive: beh, se l'Africa c'è un'economia macchia di leopardo, in Italia è a cacca di piccione, ma non è così. Capisco la battuta. Le gazzelle africane, sì. La nostra resta la seconda economia manifatturiera d'Europa, dopo la Germania, con un altro tipo di dimensione. E invece vedo che, ma nel salutare Gerardo Pelosi non riusciamo a darlo, che Mario Draghi stanno iniziando a uscire le dichiarazioni di Draghi, che ha detto bisogna assicurare l'applicazione delle norme sul bail-in, e senza l'intervento della Banca Centrale Europea ci sarebbe deflazione e meno crescita. Grazie intanto anche a Gerardo Pelosi, è veramente tutto da Sebastiano Barisoni, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.